calare mai. Resta in cielo più che puoi, se tramonti il mio amore, lo sai, se ne va, se ne va, se ne va. Stella, quando tu verrai, so che non la troverai, i bei giorni non ritornano mai. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dal primo quarto all'ultimo la luna passerà, dal primo quarto all'ultimo, ma lei non tornerà. L'amore è come il mare, prende, lascia e se ne va, ed un sapore amaro resterà. Sole, non calare mai, resta in cielo più che puoi. Se tramonti il mio amore, lo sai, se ne va, se ne va, se ne va. Puoi, se tramonti